Ma scusate, ma ci sta un giorno che vi va bene qualcosa a voi? Ci sta un giorno che vi va bene qualcosa? Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Alle 16 luglio-agosto non possono giocare senza pubblico. Oh, io lavoro tutto l'anno senza pubblico, caldo, freddo e tutto il resto, campagna, discariche, rifiuti, cantiere, camion, escavatori, un caldo infernale e lavoro, lavoro caldo, lavoro tutto. Io ho sentito che si parlava di dare le partite di campionato su diretta gol, mi sembra che non sono tutti d'accordo. Ma io che ho un abbonamento, cosa devo fare? No, un abbonamento allo stadio, Parleremo naturalmente degli infortuni, tanto per dire qualcosa. Allora, non siamo mai contenti. Se si ricomincia appunto, se no si fa festa. È come il digitale terrestre, o vedi o non vedi, e via di mezzo e non ci sono. Quindi gioiamo e se si rompono, pace. Avete voluto giocare? Allora ragazzi, la bicicletta, e bisogna pedalare, pedalare, su! Bene, ricominciamo. Poi, toccando ferro, il primo positivo tra i calciatori, pandemonio. Devi fermare la squadra che ha giocato prima, la squadra che deve giocare, la squadra che ha giocato 15 giorni prima. Insomma, sarà un grosso problema. Saluti! Opinioni sparse dei nostri ascoltatori, continuate a mandarne WhatsApp vocali 349-238-6666. A proposito di social, prima che Trump intervenga con la sua stretta sui social, radio tweet Pierluigi Pardo. Sì, ecco, speriamo che non rompa le scatole pure a me Trump. No, il radio tweet in realtà invece è un inno alla speranza, perché fra le varie notizie di questi giorni, fra le varie inchieste, l'ho letto per esempio con Ceniti sulla Gazzetta, c'è questa ripartenza del baseball a Codogno. Sai che le città degli sport cosiddetti minori sono però città che poi hanno, ci sono dei paesini o delle cittadine in cui un determinato sport per tutta una serie di motivi invece ha una sua popolarità e una sua pratica e sta ripartendo. Anche lì non mancano i dubbi, non mancano le paure, come è logico che sia, come umano che sia, però insomma è un altro segno della faticosa, faticosissima, rischiosa ripartenza della vita, e quindi è un segnale bello pensare che lì dove si gioca a baseball si stia ricominciando a farlo, anche se faticosamente e con qualche patema. E stasera sapremo, 18:30 prevista la riunione del consiglio dei 10 assenti, insomma gli stati generali, ministro, Gravina eccetera eccetera, poi ci diranno un calendario più preciso. Stiamo facendo la punta alla matita, Maurizio Crosetti, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Ciao. Se volete metto la matita. Sì, no, fai la punta alla BIC perché stasera sapremo se avremo ancora qualcosa da scrivere, di cui parlare, o se continueremo a fare dell'arte varia. Sì, noi avremo sempre qualcosa di cui parlare, dai, su via. Siamo nati per questo. No, io credo che proveranno in tutti i modi a partire e non sapranno in nessun modo se finire, ma questa è un'altra... È un'altra tiritera che conosciamo. Devo dire però che ha ragionissimo il primo ascoltatore, l'amico che ha detto che lui lavora tutto il giorno, tutto l'anno, tutta l'estate con qualunque temperatura. Io ho pensato, naturalmente, certamente alle persone che lavorano davvero, non come noi o come i calciatori, ecco, ma anche ai ciclisti, per esempio. Quest'anno non c'è il Tour, non ancora, ma insomma, cosa dovrebbe dire un ciclista del Tour o anche del Giro? La tappa alle ore più calde sono proprio quelle. Tappe di solito arrivano verso le 5 del pomeriggio, quindi sì. Le salitone se le pappano dall'una e mezza alle 4. Sì, fare il Mont Ventoux. Questo è il loro fare il Mont Ventoux a luglio non è facile. Integro quello che dice Maurizio. Detto questo, ovviamente, se si riescono a trovare delle soluzioni di buon senso, e secondo me ci sono le possibilità, sì, certo. Tanto più che è un periodo estivo, è un periodo nel quale i giorni quindi si assomiglieranno l'uno all'altro, soprattutto a luglio, ovviamente. Si può anche giocare alle 11 di sera una partita, non, se questo può essere utile per l'incolumità dei giocatori, fare degli slot 18, 20 e 30, 23, perché no? Dai, può essere anche un modo per sperimentare qualcosa in un momento ovviamente di emergenza. Quindi, detto questo, sì, certo, il pensiero va a tutti quelli che lavorano davvero e non siamo né noi né i calciatori, anche se poi tra noi i calciatori c'è una differenza dal punto di vista economico. Che sì, trovare, anche qualche altro. Questo è un dettaglio, anche però diciamo che abbiamo la fortuna di fare un lavoro divertente, appassionante, e tantissima gente insomma fa lavori anche manuali d'estate. C'è l'elemento della prestazione fisica che secondo me è fondamentale, no? Della performance, del fatto che devi battere l'avversario, e quindi insomma ripeto, il buon senso, come tante cose il buon senso, sì. Così come spero che ci sia oggi alle 6:30. Ma siamo, anche ai mondiali e agli europei siamo abituati comunque a prestazione fisica estrema, a giocare in questo periodo dell'anno, insomma io credo che una soluzione si trova. Vedi l'altro giorno, Pierluigi, ti citavo l'intervista proprio del qui presente Crosetti a Baricco, no? Bellissima. Sì. Baricco diceva, a proposito di argomenti ben più grandi di scuola, ci sono parchi, teatri, perché non fare lezione lì se abbiamo delle aule che fanno schifo, delle strutture inadeguate? Ebbene, sarà mica un problema mettersi d'accordo sull'ora delle partite a porte chiuse, no? Ma infatti. Maurizio. Dobbiamo scompaginare un po' le categorie che siamo sempre stati abituati ad utilizzare, qualche volta anche per comodo, qualche volta per facilità, qualche volta perché ci riesce meglio, è normale. Soprattutto perché siamo dei tremendi abitudinari, mio caro. Un po' sì, poi nell'abitudine qualche volta si depongono al calduccio le uova, no? Si sta lì, però se qualcosa è molto, ci ha insegnato questo terribile ma non del tutto inutile periodo, e qualcosa ci ha insegnato è proprio a ribaltare un po' i nostri schemi mentali, vale per tutto questo, e naturalmente anche per l'approccio allo sport, quindi anche per, come dice Pierluigi, per i canoni, no? E i canoni non ci sono più, a parte quelli del TV a pagamento. I canoni di orari, i canoni di rituali, e anche i canoni che sembravano impossibili da contemperare, no? E un calcio senza pure, che calcio è? Non è il calcio che vogliamo, ma è calcio, non è finto, non è cartone. Sì. Il pubblico sarà di cartone, ma il calcio secondo me non sarà di cartone, vedrete, non sarebbe anzi. Ma qualche esempio ce l'abbiamo, quello tedesco, no? della Bundesliga, non certo. Mi sembra un brutto vedere, tutto sommato. È meglio, ma è vero. È la solita cosa, è meglio di niente. È un bel, allora, la partita è un bel vedere sempre, anzi, ho letto delle analisi sul fatto che c'è più tempo effettivo, ci sono meno pause, c'è meno aggressività, ci sono meno proteste arbitrali, quindi ci sono anche gli aspetti che secondo me l'assenza del pubblico, proprio come dicevo l'altro giorno nei talk show televisivi del periodo della quarantena, senza il pubblico in studio il politico cerca meno lo slogan, cerca meno la frase a effetto, quindi punta di più al sodo, ammesso che abbia qualcosa di sodo da dire, ma questa è una battutaccia, ma al di là di questo, quindi, guarda che Trump ti ascolta, sì, fai no, il bravo, fai bravo. No, stavo dicendo, secondo me l'elemento fondamentale è questo qua, appunto, che poi la partita esiste, l'agonismo esiste, le squadre vorranno vincere, credo che anche i tifosi, anche se non potranno seguire le partite dal campo, però comunque poi alla fine ti faranno per la loro squadra, cioè non è che se c'è Juve-Lazio decisiva per lo scudetto la gente non la guarda perché non può andare allo stadio. È una gran tristezza che ci ricorda per l'ennesima volta l'importanza, la bellezza e il rispetto che si deve avere per il pubblico pagante, come direbbe De Gregori, al quale devono essere dati stadi seri, buoni, nuovi, servizi, deve essere trattato con rispetto a 360 gradi. L'altro elemento che mi veniva in mente è, insomma, con Maurizio ci sentiamo spessissimo, tutti convocati, anche in privato, io l'ho collegato un giorno di, credo, fine febbraio, forse inizio marzo, per Maggia come parli, lui era appena stato alle Molinette dove era appena scoppiato il vero casino del Piemonte, no? Credo che Maurizio me lo confermerà. E Maurizio, io l'ho seguito in queste settimane, giustamente, legittimamente la situazione è cambiata, è quello che dico anch'io, cioè non è che non cambiare idea o non avere un approccio dialettico sia una cosa da deboli, è che in una situazione di pandemia come questa, che cambia di giorno in giorno, di settimana in settimana, di chilometro in chilometro, perché non ci prendiamo in giro, quando in questo momento noi abbiamo una parte del paese che continua ad avere dei numeri preoccupanti, una parte del paese che non ha casi da giorni o che ha 5 casi su 10 milioni di persone, e che un po' si chiede che cosa stiamo facendo, vale la pena fare questo sacrificio. Quindi io credo che proprio la dialettica ci debba sempre accompagnare, soprattutto in vicende come questa, che è stata ed è ancora una vicenda che può cambiare veramente, non dico di ora in ora, ma di giorno in giorno. Ma il punto di vista di tutti noi è cambiato, perché è cambiato il contesto in cui, la pentola in cui eravamo immersi, Maurizio. Certo. Noi viviamo nella cronaca e abbiamo anche il privilegio di raccontarla, e la cronaca è cangiante, la cronaca è flessibile, e qualche volta è anche impermanente, e sono caratteristiche e categorie che ci vengono richieste più di prima. La flessibilità mentale e anche pratica, fisica, logistica, economica, purtroppo quella sarà richiesta a tanta gente che ne farebbe volentieri a meno. E quindi in questo mondo mobile, altro che liquido, è aeriforme, altro che. E allora però dobbiamo comunque starci dentro, dobbiamo guardare la possibilità positiva, l'aggancio sempre col futuro. Abbiamo figli, abbiamo giovani, abbiamo voglie nostre, abbiamo desideri tenuti nascosti, astinenze, perché il calcio, lo ripeto, l'ho detto altre volte qui, non è un modo per passare il tempo perché non sappiamo cosa fare. Il calcio è parte del nostro tempo, è come leggere, come mangiare una cosa che ci piace, come voler bene, amare, passeggiare, viaggiare. E chi è appassionato di calcio sa che questo è un pezzo della propria vita, è quasi un organo del proprio corpo, e non si può vivere senza alcuni organi, purtroppo sì, ma senza altri no. Senza il cuore non puoi vivere, poi noi siamo col cuore artificiale da due mesi. Sì. Abbiamo bisogno di pompare il sangue di dentro. Tutto questo, senza voler difendere nessuna categoria che ha bisogno di essere difesa, magari è incomprensibile a chi il calcio non lo segue, però quantomeno diritto al rispetto credo sia necessario arrogarselo. Federico da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Bentrovato, dica. Ciao. Buongiorno. Io chiamavo per... io sarei molto molto contento di ricominciare a vedere qualche partita del campionato di Serie A. Sto guardando anche la Bundesliga e mi prende, mi piace anche senza pubblico, è un contesto un po' diverso dal solito. Ma io sono molto dubbioso purtroppo per il campionato, delle ripartenze per il campionato italiano. Troppi presidenti sento che sono contrari a questo per interessi personali. È questo che mi preoccupa, e volevo chiedere un'altra cosa: se dovesse ripartire il campionato, sì, il rischio di essere compromesso anche il campionato successivo c'è? In quanto in teoria questo campionato dovrebbe finire a fine agosto, sì, da quello che ho capito, sì. C'è il rischio che anche il campionato prossimo, sì, Enrico, per noi come per tutti. Il rischio c'è, ma è secondo me indipendente da questo campionato. Io, per me l'argomento proprio decisivo che mi porta a dire ormai da due mesi che si deve provare a fare, ci si deve provare, è che in ogni caso, se anche tu decidi che chiudi il campionato domani mattina e cominci la prossima stagione, e la prossima stagione comincia a luglio. Le stagioni normalmente cominciano a luglio con gli allenamenti, con i ritiri, con le amichevoli, quindi non è che non cambia molto, cambia un mese. Io credo che una deadline questo campionato ce l'abbia, questo è un campionato che deve finire entro fine luglio, inizio agosto, con e poi le coppe europee e poi c'è la stagione successiva. Poi, quindi il dubbio io ce l'ho, ma ce l'ho sulla vita, nel senso che finché non trovano sto benedetto vaccino o finché non scopriamo che il virus si è, come qualcuno spera, ma per ora è solo una speranza, si è indebolito, questo ancora non lo sappiamo, e fino a che non arriva questa situazione qui saremo sempre, sì, a rischio, e dobbiamo cercare una convivenza. È chiaro che purtroppo non c'è della cosa di dire vabbè rinunciamo a questo campionato e fra un mese e mezzo è sparito il coronavirus e giochiamo a pallone per la stagione prossima. Se fosse così io credo che nessun presidente avrebbe un dubbio. Nessun presidente avrebbe un dubbio, ma non è così. No, poi quanto rapporti con la prossima stagione, sì, economicamente, e poi la prossima penso che avrà gli stessi rischi che ha avuto questa, cioè i rischi legati al virus, ai virologi, alle medicine e ai vaccini. No, poi chiaro che i rapporti con la prossima stagione, insomma, sarà per tutti la stessa cosa, e poi, come si diceva prima, si tratterà di rimodulare i nostri schemi mentali, perché è chiaro che se la Champions finisce, come tutti ci auguriamo, speriamo e crediamo anche, alla fine di agosto, poi la prossima stagione inizia a metà settembre, perché poi ci sono gli europei, si tratterà di rimodulare i calendari, ma anche questo sarà uno schema mentale diverso cui adeguarsi, no Maurizio? Sì, io credo che non solo siano collegate le due cose, cioè provare a partire adesso oppure tentare e sperare di partire a settembre, ma una cosa è preparatoria dell'altra, cioè non sarebbe comunque tempo perso, non sarà tempo perso trovare il modo di ripartire adesso, perché questi saranno comunque i protocolli, saranno le procedure da applicare eventualmente a settembre o a ottobre o quando sarà, cioè le discipline che hanno chiuso bottega da un giorno all'altro non sono avvantaggiate nella riapertura, hanno come dire rimosso un problema, hanno buttato la polvere sotto il tappeto, però il calcio ha questo merito che non tutti riconoscono, che quel tappeto sta provando a lavarlo o comunque l'ha tirato su e la polvere certo c'è, stiamo provando a spazzarla via, no? E sarà molto molto difficile. Resta il fatto. È un allenamento, è una pratica per vedere cosa succede dopo. Stiamo cercando di capire se è possibile. Stiamo cercando di capire se è possibile giocare a pallone nell'epoca del coronavirus. Cioè questa è la cosa. E perché se non è possibile, non è che fra sei mesi diventerà possibile. Diventerà possibile il giorno in cui il signor Fauci o il signor Burioni o la signora Capua o chi volete voi, scegliete il vostro virologo preferito, e ci dirà che su Science è arrivata la notizia ufficiale del vaccino e che lo producono in miliardi di dosi. Sì. Allora quel giorno lì noi saremo liberi dal coronavirus. Io spero che arriverà presto e sono anche ottimista di natura, però finché quel giorno non arriva tutte le attività umane devono confrontarsi con questo nemico e il calcio lo sta facendo. Poi anch'io sono veramente in linea, mi sembra, con la sensibilità di Maurizio, cioè anch'io ho molti dubbi, perché ci sono, perché hai visto la cosa della persona dello staff del Bologna che ieri era positiva e oggi fortunatamente oggi è negativa. No, appunto la cronaca dice che questo caso non è facile, ma insomma il fatto che ci sia questo mal comune, insomma, anche da altre parti non è facile. Inghilterra continua ad avere dei problemi, però anche lì vogliono ripartire. Viene da pensare però, Maurizio, hanno alcuni movimenti, alcuni campionati che hanno chiuso hanno spazzato la polvere sotto il tappeto, però probabilmente non potevano fare altro. Mi ha fatto molta impressione la settimana scorsa quando Sandro Campagna, che è allenatore campione del mondo in carica da pallanuoto, ha detto ho l'impressione che quel regime di semiprofessionismo cui tutti gli altri sport di squadra sono abituati sia definitivamente scomparso. Negli altri sport di squadra onestamente non c'erano le strutture societarie necessarie per continuare questa stagione e chissà la prossima. Indubbiamente, se c'è qualcuno che ce la può fare è il calcio, la Formula 1, sono quelli del calcio, che sono i più ricchi, e se nel mondo c'è qualcuno che tra questi più ricchi e più attrezzati può farcela, beh, questi sono i tedeschi o i cinesi. Quindi comunque non è un caso, un vetto, i tedeschi si stiano provando e probabilmente ci riusciranno anche, e non sono su Marte e non sono degli scriteriati. Io credo che questo vada tenuto in considerazione, non soltanto così per l'analisi dei contenuti di queste partite che sono davvero molto interessanti, ma perché ci spiegano come un tentativo può essere portato avanti. Poi i tentativi lo dice già la parola, no? Si tenta, non è detto. No, il fatto che tu parli così dei tedeschi perché stai scrivendo come un matto e stai pensando a Italia-Germania 4-3. È arrivato un uccellino dalle parti di via Monterosa. Ma veramente? Se posato. Ma quanto scrive, Crozza? Calcolo di quante righe scrive al giorno. Hai fatto il calcolo? È un buon ingombro, però, visto che diciamo che la prossima settimana magari di questo 4-3 potremmo anche parlare. Dai. Mi dici cosa c'è ancora da dire su questa partita, perché tutto quello che ho detto io nel libro che uscirà per Colli. Io l'ho rivista un paio anch'io, di mesi fa. Anch'io lo stesso giorno. Credo sul Rai Sport. Bravo, anch'io. Credo sul Rai Sport, non voglio dire cose inesatte. Bravo, esatto. E devo dirti che ci sono delle cose, forse l'ho anche raccontato, ci sono delle cose che oggi sono sorprendenti, cioè una certa mancanza di malizia di giocare il pallone invece di andare dalle parti della bandierina un minuto dalla fine, cioè, e questo al di là di tutto, al di là del ritmo, al di là della bellezza di quella partita, del romanticismo di quella partita, ma c'era proprio questa cosa che mi ha colpito, cioè il fatto che fossero molto meno smaliziati, molto più puri se vuoi, no? A me, della... caro amico telecronista, a me c'è un'altra cosa che ha sorpreso, c'è Martellini che fa un culo all'arbitro, che lo facesse un telecronista di oggi, gli leverebbero la pelle. Con i social, tu pensi, proprio in tendenza dopo 30 minuti. Dice di quelle cose, magari ha ragione probabilmente, poi il tifo ci sta, però dice di quelle cose che l'avessi dette tu in telecronaca, ti avrebbero levato la pelle. Giuseppe da Como, buongiorno. Buongiorno a lei. Senti, io desideravo chiedervi se avete notizie circa che cosa intendano fare le società in genere circa gli abbonati, che ovviamente sono in questo momento parte lesa, avendo pagato dei quattrini a fronte dei quali non usufruiscono delle partite. Questo è chiaro ormai. Sì. Io... Quindi siccome io non, magari mi sono distratto, ma non ho sentito nessun tipo di notizia o di idea su come gestire questa cosa, mi chiedevo se voi avete altre notizie. Credo che non ci sarà una linea comune, ma dipende dal gestore del servizio, mi pare di aver capito. O mi sono perso qualcosa anch'io, ragazzi. Sì, dovrebbe essere così. È chiaro, lo diciamo dal giorno zero, che questa è una, appunto, è una crisi, è uno shock abbastanza simmetrico alla fine, nel senso che riguarda tutti. E la catena di stakeholder, come direbbero quelli bravi, cioè dei portatori di interesse, è enorme, perché ci sono gli abbonati alle televisioni, le televisioni che a loro volta non stanno ricevendo un servizio dalle squadre di calcio, sì. Gli abbonati allo stadio, stesso discorso ovviamente, no? Cioè sono tantissime categorie sociali che sono portatrici di diritti e che in qualche modo dovranno essere ristorate, questo non c'è dubbio. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Con chi sto parlando? Con tutti i convocati, Carlo Genta, Pierluigi Pardo, Maurizio Rosetti. No, scusa, perché cuore e denari siamo. Quello era Pardo, vero? Esatto, proprio lui. Ciao. Allora, io non volevo parlare di calcio, volevo solo dire una cosa riguardo a Pardo, che si continua a parlare di questo benedetto vaccino, ha nominato sì. Bubu, cioè Burioni, noi lo chiamiamo Bubu. Sì, vabbè, chi mi conosce sa benissimo a che cosa sto dicendo. Il problema, Pardo, è che, come ha detto anche gente molto più illustre, tipo Montagnier, queste persone qui, non si può fare un vaccino per un virus che muta ogni 2-3 settimane. Vorrei che passasse un po' di più questo discorso, perché la gente sta aspettando, convinta, che risolva il problema, e non lo risolverà il vaccino, perché il vaccino è come l'influenza, tutti gli anni cambia, questo cambia ancora più rapidamente, e lo dico perché conosco scienziati, persone certo, che Gianni, lo spiegano. Certo Gianni, magari lei ha ragione, non lo so, però le ricordo che è sempre tutti convocati. Non sono un esperto, forse il contenitore più adatto. Sento, ne sento tante, per esempio sento anche virologi che dicono che il virus non è mutato, che non abbiamo prove del fatto che sia mutato, se lei sa che è mutato, io veramente è un tipo di dibattito nel quale non ho proprio gli strumenti per entrare. Però quello che viene detto è che fino a quando non ci sarà un vaccino o un'alternativa, un protocollo sanitario molto forte, molto preciso, e credo da quello che si è capito che da quel punto di vista stiamo meglio di un paio di mesi fa, cioè sicuramente i medici adesso hanno molta più esperienza rispetto a 2 mesi fa, quando sono stati colti legittimamente di sorpresa nell'approcciare questo tipo di problema, ecco, fino a quando non ci sarà una di queste due cose continueremo a doverci convivere. Quindi con ogni probabilità, ma chiederemo a Nicoletta Carbone, che è più esatto, ferrata di noi. Esatto, io invece molto più molto più brutalmente volevo chiudere con Maurizio Corosetti chiedendogli una cosa che è quasi personale. Ho pensato anche a te l'altro giorno quando, leggendo gli estratti di quel documentario su Armstrong, diceva io i giornalisti li guardavo negli occhi e gli raccontavo delle balle sconvolgenti, mentivo sapendo di mentire. Tu hai scritto tra le tue mille cose anche di Lance Armstrong. Voglio sapere cosa hai pensato. Ho pensato che è sempre meglio passare per coglione che per cattivo, ed è molto meglio far la parte dell'ingenuo, non recitandola, cioè scoprirsi ingenuo e cascare dal pero piuttosto che prendere la sega elettrica e tagliare quel pero all'inizio e dire che me ne frega del pero. No, tutto questo per dire che sono stato tra i buggerati, tra i boccoloni, quelli che ci hanno creduto, ma non perché eravamo una massa di cretini, perché sapevamo che era una cosa importante poter guarire dal tumore e dirlo agli altri. Io ho visto le foto di Armstrong nei reparti di oncologia, avevo un amico che purtroppo non ce l'ha fatta, ma che ha provato, ce l'ha messa tutta, ma non vince chi ce la mette tutta, vince chi vince, vive chi vive. Certo. E parlavamo di Armstrong, gli ho dedicato il libro poi, Paolo, carissimo Paolo. E tutti noi e tutti loro che hanno visto in Armstrong una possibilità di speranza, sono stati da un lato ingannati, sì, va bene, ma hanno avuto anche un'energia, una forza, era falso, va bene. Ma l'energia era vera, l'energia che i malati hanno avuto da quell'esperienza era vera, e qualcuno probabilmente, non dico che ce l'abbia fatta con quel tipo di ottimismo lì, ma forse anche soltanto un giorno, un'ora, un momento di angoscia po' ridotta, no? Pensando, sì, sì. Beh, caspita, ce l'ha fatta lui, allora io non mi butto alla finestra, ci provo. Detto questo, è il più grande truffatore della storia dello sport contemporaneo e noi in parte suoi complici involontari, e purtroppo va detto. Sì, e questa cosa mi fa pensare a un tweet, non una polemica, ma una discussione insomma, molto interessante che c'è stata qualche tempo fa proprio con Maurizio Protagonista, sul fatto che molto spesso, troppo spesso, nelle vicende terribili, imparabili della vita, si tende a romanzare, no? A costruire l'elemento della volontà come se la volontà bastasse, come se la volontà fosse, come se una persona ha un brutto male. Poi è la sua volontà che lo tira fuori, non è vero, non è la sua volontà che lo tira fuori, la volontà può essere utile a se stesso, agli altri, può avere anche delle valenze di natura scientifica e su questo ovviamente i medici indagano, ma poi è il corso degli eventi che fa la sua storia, quindi niente di peggio che colpevolizzare qualcuno che è già in una condizione. Tante ragioni per cui abbiamo voluto un gran bene a Lance Armstrong, non solo sportivamente, e sono queste cose che dice, fanno proprio per questo forse particolarmente male. 17 giugno Italia-Germania 4-3, giusti 50 anni? Sì, 17 giugno è il 10 e l'11 nelle migliori librerie, anche in edicolo usciamo questa volta, quindi con Repubblica, quindi questa è una bella cosa. Scrive come un matto, perché non hai scoperto il padel, secondo me. Altro che fare la punta alla penna. Altrimenti. E beh, allora a risentirci presto. Sono un roller senza fine. Ciao Maurizio. Ciao. Allora fermiamoci per la borsa, poi oggi è un altro compleanno importante, se lo ricorderanno bene i milanisti, e poi ci sono regole di Formula 1 che cambiano in maniera piuttosto importante, tutto questo dopo la borsa. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Tutto sospeso in attesa del tiro di Shevchenko. Si gioca tutto qua. Shevchenko contro Buffon. Merkel controlla. Può partire. Shevchenko, tiro ed è rete! Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia. L'esplosione di entusiasmo incontenibile. Il Milan ai calci di rigore vince. Dopo 40 anni sarà un altro Maldini dunque ad alzare la Coppa dei Campioni nel cielo d'Inghilterra. Bene, sì, oggi la Champions di Manchester è quasi maggiorenne, 17 anni da quella sera. Buongiorno Roberto Zappelloni. Ciao, buongiorno. Ciao, non è solo. Ciao. E non dimentichiamoci che il 28 di maggio comunque il Milan ricorda un'altra Champions, è ancora Coppa dei Campioni, ma quella del 79, quel 4-1 con l'Ajax, insomma sai, per i milanisti forse è un'abitudine vincere due coppe nello stesso giorno. No, più che altro, più che altro mi viene da dire che a guardare il Milan di oggi questi compleanni saranno l'unico modo per fare festa anche nei prossimi anni. Questa è la verità, perché oggi tu non sai che Milan avrai, non dico quando ripartirà, se ripartirà il campionato, insomma, perché già lì qualche dubbio, visto quello che è capitato a Ibra, ci sarà, con una punta sola non so dove potrà andare il Milan. E poi continuano a esserci poche idee o è anche, anche abbastanza confuso su quello che sarà il futuro tecnico di questa squadra, per cui non è un momento semplicissimo per i tifosi milanisti. Vivere di ricordi è bello, però dopo un po' ti stufi di vivere di ricordi e vuoi tornare a vedere, a vincere qualche partita, insomma, capisci? Anche perché Pierluigi comincia a essere lontanucci, cominciano a essere lontanucci. Sì, sono lontani e soprattutto sono, leggevo che, non so quale studio onestamente, confesso l'ignoranza, che negli ultimi 5 anni il Milan è la squadra che ha perso valore, l'unica squadra sì. che ha perso valore, quindi sì. è andata in una direzione contraria rispetto a quella classica, tradizionale della, dell'inflazione, del tempo che corre. Sì, indubbiamente, insomma, stride e devo dire forse non aiuta neanche in questa fase, in questo periodo nel quale abbiamo visto dentro tante cose, insomma, dalla cessione dalla prima cessione del Milan alla famosa estate dell'arrivo di Bonucci, al caso Donnarumma, a tutto quello che è successo in questi anni, a Piontek, eccetera. E io credo che quel paragone, quel termine di paragone così grande, così forte, così profondo, in certi momenti sia stato un'ulteriore zavorra sulle capacità dei giocatori, sulla lucidità dei dirigenti, sugli umori del pubblico. Comprensibilmente, poi la storia del Milan, sai, insegna, per 3 anni aveva goduto come forse nessun altro, no? Sì, e poi da lì veniva anche lì da una stagione grigia prima di Berlusconi, te ne ricorderai, dallo sì, scudetto sì, con la retrocessione in B, poi gli lunghi anni di Giussi Farina, di squadre sbagliate, di mezzi giocatori, di soddisfazioni da derby con Wilkins e Atley, eccetera eccetera, fino poi a tornare adesso, insomma, se Vico ha ragione, prima o poi tornerà anche il Milan. Tu eri a Manchester, Piero? No, io non ero a Manchester. Eri davanti alla televisione? Ero a casa di Giuseppe Brindisi a Roma, giornalista del TG4. Pensa tu. E quando hai visto gli occhi di Shevchenko, anche tu, come tutto il resto del mondo, non hai avuto dubbi sull'esito di quel rigore, giusto? Ma insomma, cioè, a rivederlo dopo, pensi che non potrà mai sbagliare. Poi c'è il famoso paragone con Istanbul, no? Sulla diversità di quegli occhi. Istanbul, sappiamo che è successa una cosa esoterica che fa male ai tifosi del Milan, ma che è stata poi vendicata 2 anni dopo nella maniera più sana, eclatante, sì. Perché per il resto, insomma, stiamo parlando di quello, di esoterismo. Milan-Liverpool del 2005 non è una partita che ha una spiegazione logica, perché il Milan l'ha dominata per 110 minuti su 120, questa è la verità. No, tornando agli occhi di Sheva, sì, sicuramente a rivederlo dopo sono proprio gli occhi di uno al quale affiderei, non lo so, il mio conto in banca. sì, qualunque cosa. No, ma io anche col senno di prima, ti dico la verità, io ricordo questa sensazione nel vederlo in diretta. Quando l'ho visto in faccia, sarà così la suggestione, non so tu Umberto, ma io ho detto non sbaglia mai nella vita. Guarda, io quella sera ero a Manchester come inviato del Corriere, fu la prima volta che scrissi un pezzo in prima pagina sul Corriere della Sera, quindi lo ricordo con grande piacere. Quindi quegli occhi li ho visti soltanto poi dopo in da televisione. Lontano, sì. Però l'aria che si respirava era un'aria decisamente, per tutta la partita, anche se non è stata una gran bella partita, va ricordato, anzi, decisamente rispetto a quella piuttosto di Istanbul che ricordava Pierre, invece era stata tutt'altro partita. Però nel Milan si respirava un'aria di fiducia che quel Milan poteva avere, perché da Ancelotti in giù era un Milan che era un Milan concreto, era un Milan fatto di grandi personalità, era un Milan che aveva una grande fiducia in se stesso, e lo si è visto poi comunque come ha tenuto in tutta quella stagione, insomma, quella stagione del Milan era stata comunque col derby vinto in semifinale. Appunto. Quello che è successo a Istanbul è assolutamente inspiegabile, assolutamente sono cose che solo la bellezza del calcio, la bruttezza, se sei visto dall'altra parte, ti può raccontare, perché anche lì purtroppo c'ero a Istanbul e alla fine del primo tempo il pezzo si era praticamente già scritto, perché su 3-0 la partita era ormai andata, però lì imparammo una volta di più che il calcio non finisce mai, sì. Dopo devi aspettare il fischio finale o quasi, perché poi quello che è successo in quel secondo tempo, poi hai capito come sarebbe andato a finire. Io ero a Istanbul e Atene e posso testimoniare, l'ho già detto proprio come fosse vostro onore, che la famosa polemica che uscì mesi dopo su Caroselli nello spogliatoio del Milan è assolutamente falsa, almeno per quello che posso dire io, perché io mi sono ritrovato con Marco Foroni, fra l'altro, nella zona, perché avevamo dovuto fare un collegamento, e quindi eravamo veramente a pochi, a pochi metri dallo spogliatoio del Milan e del Liverpool, era tutto molto compatto e insomma francamente se ci fosse stato il carosello e la festa di cui poi si è parlato ce ne saremmo accorti, se ne sarebbero accorte le persone che erano lì, quindi è stato semplicemente qualcosa appunto di esoterico, qualcosa di no, anche di, perché di assurdo, a pensare a uno Milan... come Gattuso che festeggia nell'intervallo proprio non ci riesco, appunto, proprio non mi viene, sarebbe no, veramente qualcosa... anche qualcosa che ti scatta probabilmente nella testa, ma io mi ricordo come si arrabbiò Gagliani quando uscirono quelle storie, come si arrabbiò Ancelotti, perché non era di quella squadra di festeggiare, scattò qualcosa nella testa probabilmente, e questo nella ci testa sta. Di Ancelotti, nella testa di del Milan, nella testa del Liverpool, ma non per una festa allo spogliatoio. Certo, quando torni in campo sul 3-0 magari dopo aver vinto come, già due anni prima, è come quando fai l'esame all'università, però... direttore, fai l'esame all'università, il professore dice vabbè ti do 30, no, poi vai via e dice no aspetta vieni qui che ti faccio ancora una domanda. Sì, no, un'ultima cosa volevo chiedere a Pierluigi, poi lo lascio, mi tengo Umberto Zapperoni e andiamo sulla Formula 1, però pensando a quel 2003, a quell'anno lì, spesso mi viene in mente quanto dici tu, quanto eravamo fighi, perché... semifinale Milan-Inter, Pier, sì, sì. E poi a finale della Juventus che aveva battuto il Real Madrid, e beh insomma anche lì eravamo viene un po' di manicomio. Siamo stati, lo diciamo sempre con Belinazzo, un po' sfigati, perché in quel momento lì, quando penso agli anni 90, quando il calcio italiano dominava, il calcio delle sette sorelle, insomma stiamo parlando veramente dell'epoca d'oro del calcio italiano, in quel periodo lì avevamo il calcio non era ancora dal punto di vista economico internazionalizzato, sì. Fosse coincisa l'internazionalizzazione del calcio che avviene poi 6-7 anni dopo, quindi le tournée, il fatto che si comincia veramente a viaggiare per il mondo, il merchandising che esplode, tutto il resto, ecco, fosse successo in quel periodo lì, io credo che le nostre società sarebbero state, alcune lo sono ovviamente, in cima alle classifiche di gradimento, di consenso e quindi poi di pubblico a livello mondiale, ma credo che sarebbe andata sicuramente molto meglio, avremmo avuto una ricaduta economica sicuramente migliore, probabilmente il Manchester United, il Barcellona, il Real Madrid adesso guarderebbero le nostre big Beh, ma noi abbiamo cominciato dopo nei primi anni 80, un giorno lo faremo questo discorso, perché secondo me l'immagine che cambia il vento, il clima, il panorama eccetera, quella di Abramovic, primo magnate, che va in Inghilterra, che viene a fare lo shopping in via Monte Napoleone, certo. Portandosi via e Crespo e Zola e tutti questi qui. Grazie Pierluigi, ti abbraccio, ci sentiamo domani. Ciao. Direttore, voltiamo pagina, traffico e poi Formula 1. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Ma l'unica cosa che ci ho in mente adesso è solo tornare in pista, perché ovviamente la cosa che mi piace di più fare in questo momento, in questa situazione, è impossibile per me di guidare. Dunque ho fatto tanto simulatore, che è la cosa che si avvicina di più alla guida reale. Cioè, avete visto anche che ero tanto presente su Twitch, come dicevamo prima, cui ho potuto avvicinarmi un po' con le persone che mancavano la Formula 1, e anche quello era divertente, ma non rimpiazza la realtà. E dunque per adesso vado a dormire e mi sveglio con solo un'idea in testa, e quella di guidare. Mi manca veramente tanto, però mi sto allenando più che mai per essere pronto quando si rinizia. Carletto Leclerc sempre più glamour, Umberto Zappelloni. È incredibile, perché in questa pausa lui ha spodestato la concorrenza, che pure era molto brava sui social, perché sui social Hamilton era stato un re. Lui invece ha dominato. Poi nel giro di una settimana lui è passato da Giorgio Armani a Claude Lelouch per finire con Cattelan l'altro giorno. Insomma, si sente e non più... ha ancora corso. Ma insomma, si sente sempre più padrone. Per parlare bene della Ferrari. Si sente sempre più padrone della parte, no? Quella di capoguida, di numero uno della squadra. Giancarlo Minardi, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Giancarlo, vorrei commentare con voi... le nuove, vorrei commentare con voi le nuove direttive sulla Formula 1, i nuovi regolamenti, le nuove linee guida. Una Formula 1 sempre più povera e più leggera come organizzazione, come budget, che progressivamente scende da 145 milioni per l'anno prossimo fino a 135 fino al 2025, sviluppo praticamente congelato l'anno 21, introduzione dei gettoni di sviluppo su determinate parti, insomma sviluppo praticamente bloccato. Mercedes e piccoli team che fanno la festa, credo, Giancarlo. Ma fanno festa non lo so, perché stanno attraversando e attraverseranno un periodo piuttosto imperio per un po' di tempo. Indubbiamente per i piccoli, che comunque sono cifre estremamente importanti, per i piccoli c'è la possibilità, probabilmente, se si rimette a posto quello che è il giro di soldi che la Formula 1 fa veicolare verso i team l'anno successivo, probabilmente diventa più piccolo il divario tra gli incassi TV e premi rispetto quello che è la ricerca degli sponsor. Quindi indubbiamente a lungo andare potrebbe servire. Secondo me è molto importante invece la strada che è stata intrapresa, cioè quella di rendere molto più semplice queste vetture. Sì. Noi ogni tanto ci ricordiamo e ricordiamo i tempi passati, le macchine erano molto più semplici e c'erano probabilmente più possibilità di ottenere battaglie in pista, anche se adesso dopo 5 anni di un regolamento anche se molto complicato, direi che la griglia di partenza dalle prove che abbiamo visto a Barcellona era molto ristretta in un secondo e 7 o 8 per tutte le vetture che hanno partecipato ai test. Sì. Poi adesso si tratterà di vedere quali accordi, che mi è parso non siano ancora al 100%, verranno fatti in quelle che sono le linee guida per terminare, non so, ho sentito parlare di fondo più corto, ho sentito parlare di ali di vertice anteriori, cioè una ricerca inferiore, però si devono ancora mettere d'accordo dove fermare esattamente lo step dello sviluppo, quindi sì, sarà lì il passo importante. Indubbiamente quello che ha ottenuto il presidente della Fiat, Todd, di poter deliberare con solo il 60% degli ok da parte dei team è un passo molto, molto in avanti. Cosa prima ci voleva l'unanimità, adesso probabilmente si velocizzano di più certe idee. Sì, mi viene in mente, sentendoti parlare, quanto mi diceva il compiantissimo Mario Poltronieri, che è stato il mio abituale interlocutore a questo microfono per molti anni. Diceva che la Formula 1 dovrebbe semplificare le regole e tornare ad essere il regno dei progettisti. L'unica regola, un motore, 4 ruote, poi libera fantasia. Non so se torneranno quei tempi, ma intanto, Umberto, credo che per la Mercedes nell'immediato possa essere un vantaggio quest'anno, l'anno prossimo, eccetera, che la macchina vincente ce l'ha già, e magari la Ferrari tornerà ad alzare la voce minacciando diaspora. No, la Ferrari andrà, come ha dichiarato, a gareggiare anche in un altro campionato, ma la Formula 1 non la può lasciare, insomma, l'ha ripetuto in tutte le occasioni in questo ultimo periodo. Sicuramente sarà difficile ridurre il gap prima che si arrivi ai nuovi regolamenti che sono stati rinviati al 2022, quindi quando cambierà completamente faccia la Formula 1. Però credo che queste fossero formule, provvedimenti inevitabili, perché il mondo non soltanto della Formula 1, il mondo dell'automobile è in un momento di crisi clamorosa e quindi vero. Se tu vuoi tenere attaccate alla Formula 1 le case, grandi case costruttrici, dovevi cercare di ridurre i costi in modo drastico. E comunque 145 milioni di budget, se togli i primi 3 top team, gli altri non arrivavano a spendere quelle cifre, quindi non sono poi bruscolini. È una Formula 1 più semplice, forse ci può restituire gare più divertenti. Cioè, non dimentichiamoci che arriviamo da una stagione in cui la Federazione Internazionale ha dichiarato di non essere in grado di capire se la Ferrari imbrogliava o no sui motori, insomma. Tanto erano complicati i regolamenti e tanto la Ferrari aveva dimostrato invece di essere in regola. Per cui regolamenti più semplici e gare più divertenti credo che vadano nella direzione che vuole la gente. Sì, e anche nella direzione della sostenibilità, fai bene a ricordare la nuova notizia di ieri, è in difficoltà nel mantenere la scuderia di Formula 1 e anche lì c'è la possibilità di ingresso del solito magnate russo con solito figlio al seguito che vuole fare il pilota. Intanto oggi è saltato ufficialmente la tappa olandese che doveva essere a maggio, il ritorno di Zandvoort 35 anni dopo, vogliono tornare con il pubblico e quindi quella data non verrà recuperata. Loro dicono no, senza pubblico non ci interessa, abbiamo aspettato 35 anni, aspettiamo uno di più. Invece c'è grande attesa onestamente per il mondiale, per quel che sarà del mondiale di quest'anno. Giancarlo, sarà divertente tra l'altro vedere tanti ultimi balli, no? Compreso quello di Vettel. Ma io, indubbiamente, intanto speriamo di ripartire. C'è anche una conferma dell'Ungheria per il giorno, mi pare, 19 di luglio, per cui l'importante è che ripartiamo per vedere se dopo le prove di Barcellona c'è appunto un compattamento verso l'alto anche dei team di Serie B. Indubbiamente, come abbiamo letto tutti, ci sono dei team che hanno dei grossi problemi di sopravvivenza, anche in quotati, vedi Renault. C'è secondo me un grosso movimento in casa Mercedes che mi fa presupporre che la casa tedesca sia vicino all'abbandono della Formula 1, per cui c'è tante cose che possiamo solo vederle quando si scoprono le carte, non come adesso dove ci sono tante riunioni, tanti spostamenti, tante cose che non percepiamo solo leggendole o per sentito dire. Sì, vediamo chi resta in piedi, Umberto, per chiudere. Sì, esattamente, perché Giancarlo ricordava la Mercedes, non è, insomma, non se ne parla mai da tempo, la Mercedes potrebbe restare soltanto come fornitrice di motori, perché il nuovo presidente non è appassionato di Formula 1 come lo era il precedente, e poi obiettivamente la Mercedes ha ottenuto tutto quello che poteva ottenere, sì, dal punto di vista del marketing, dalla Formula 1 vincendo sempre, e andarsene quando hai vinto tutto, la Mercedes lo aveva già fatto in altre occasioni, quindi è possibile. Però una Formula 1 senza Mercedes, una Formula 1 senza comunque una casa costruttrice come Renault, incomincerebbe a diventare un po' povera. Quindi sì, questa sì, sostenibilità che è stata data con i nuovi regolamenti spero possa portare all'intervento di altre case, anche se certo è un momento per l'automotive molto molto complicato. Sì, anche... aggiungo un'altra cosa che mi è arrivata dalla Germania, perché fuori dei nostri confini. Sembra che il presidente della Mercedes abbia recuperato e ricomprato le quote di Toto Wolff, e questo vuol dire tantissimo se verrà confermato a breve. Sì, questa sarà la notizia, credo, da seguire con grande attenzione nei prossimi mesi, settimane, giorni. Grazie davvero, grazie Giancarlo Minardi, grazie direttore Umberto Zappelloni, a Miriam Lucchetti, a Claudio Schiattone, Edoardo Lavezzari, a Valeria Bernardi e Gianmarco Ferronato. Ci sentiamo domani alle 2. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.